So da meno la giù manco contata, l'hanno contata, ma già fidata, frate, padre, pure mia madre, ma sono grosso, tu sta tanto che hanno carandera, ma ci hanno provato, tu quando posto, posto, per sapere che da nima non è in denaro. Dice rosso, ha già fatto mezzi e fossi, in da giungla insieme all'urso, ora preda, io non perdo, so fare una rinda corsa, non culo troppo rosso, non ci sai che manco cheese, ma ci sai che non ti voglio, faccio sai che avevi coppia, ora me non tengo posto, per mettere te coppa, ma mettere in dei top, scengo siamo troppo pariggio come flotto. Cata boffo nei botto, nessuno te ne appena. So con Messi, so con Leo. Sto durmen, è mo scita governante. Vo sapere che voglio cena. Nengo fama, nengo seta, a meno che non so rapper. Scegli e passo suono in terra. Olè, tutta giornata, tutta nottata. Chi sbaglia paga, se non sapi. Io tutta vernata, tutta vernata. Pure l'estate, sto per le strade. Sempre, sempre, sono mezza via. Tutta giornata, tutta nottata. Chi sbaglia paga, sono mezza via. Tutta vernata, tutta vernata. Pure l'estate, sto per le strade. Sempre, sempre, sono mezza via. Il biffo ben al business, solo se vendi hamburger. Io ho sempre le mani in pasta perché ho le braccia lunghe. Tu vuoi farmi fuori, brother? Non ti basterà una Luger, perché il mio amico ha una K. Bugge ne ha più di due Yugi. Geriari, il nuovo patto, partono le grandi purghe. Io non credo più ad un cazzo perché ho visto cose assurde. Dovrei cambiare nome, tolgo il kit, ci metto in lustre. Targhe straniere in Puglia, non ci arrivano le multe. Yo, yo, in i mini mani mo, questo schiaffo a chi lo do. Bevo tutto una patron, esco a fare carascio. Cattivissimo Pol Pot, sparo e voi fate il foxtrot. Giro solo coi calf trot, atterriamo a Charles de Gaulle. Tre stagioni in Divo Mode, tutto il lusso Bernard Nold. Alcolista di Landoc, Crocodile non è la cost. Faccio soldi po' shalom, piscio sul pensiero walk. 30 paste colorate, ci posso fare il beer pong. Tutta giornata, tutta nottata. Chi sbaglia paga, sono mezza via. Tutta vernata, tutta vernata. Pure l'estate, sto per le strade. Sempre, sempre, sempre.